Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Pensa alla volontaria dei tortellini di Modena. Ora, siccome io di volontaria dei tortellini di Modena, che quasi nessuno votava per me alle primarie, giustamente, ma abbiamo avuto lunghe discussioni con alcune volontarie dei tortellini di Modena, io dico alla volontaria dei tortellini di Modena che fa benissimo essere orgogliosa del risultato, che è giusto che sia andata a letto felice ed entusiasta, ma è proprio la volontaria dei tortellini di Modena che oggi ci invita a non sprecare questo carico di responsabilità. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dava l'idea di avere un po' fame oggi Renzi durante questa direzione del PD. Ha parlato molto insistentemente, avete sentito, di tortellini e poi naturalmente anche di altre cose che affronteremo. C'è sempre per voi, dopo il riassunto, ma anche da subito potete scrivere, i due canali per partecipare alla trasmissione ogni sera qui dalle 21 alle 22. Ci sono i messaggi e sms da mandare, se volete, al 349-238-6666, oppure c'è costantemente disponibile la pagina Facebook di Effetto Notte. Oggi parleremo anche di una sentenza della Cassazione che riduce le pene per i piccoli spacciatori di droga e quindi potrebbero uscire migliaia di persone, in parte risolvere la questione del sovraffollamento delle carceri di cui abbiamo parlato ieri, perché proprio ieri scadeva il termine dato dall'Unione Europea all'Italia per risolvere la situazione. Cosa ne pensate? Se avete dei vostri pareri, delle vostre considerazioni, dei dubbi, eccetera, ci sono questi due canali per partecipare. Intanto potete ascoltare, vi riassumo la giornata di oggi. La riunione del PD, Renzi lancia le sfide su Unione Europea e lavoro e dice la vittoria ci dà responsabilità. Assemblea di Confindustria, il presidente Squinzi rilancia sulla crescita e la ministra Guidi dice stop alla cultura anti-imprenditori. Incidente nel Bellunese, si ribalta un pullman con a bordo 40 ragazzi, ci sono 4 feriti gravi. Droga, la Cassazione decide sia la riduzione delle pene per lo spaccio di quelle leggere, migliaia fuori dal carcere, e la Camera passa al divorzio breve, ora va al Senato. L'inchiesta su Carige, violati i divieti per i domiciliari, va in carcere l'ex presidente Berneschi. Ucraina e guerra aperte, i ribelli abbattono alcuni elicotteri e nasce l'Unione Euroasiatica a 3 tra Russia, Kazakistan e Bielorussia per uno spazio economico unico. Ancora atrocità contro le donne in India, un branco di uomini violenta due ragazzine e poi le impicca. FS nominati vertici ammessori la presidenza e lì alle deleghe di amministratore delegato nel CDA. E per il calcio il CONI boccia il ricorso del Parma e per il Torino si aprono le porte dell'Europa League. Quindi dalla pagina economica, la nostra economia, ma prima anche quella americana che perde colpi, e il PIL, il prodotto interno lordo del primo trimestre, è calato negli Stati Uniti dell'1%, nonostante le stime che lo davano al più 0,1%. Il quarto trimestre si era chiuso con un PIL in crescita del 2,6%, quindi un po' un colpo d'arresto, insomma. E ora invece ciò che è emerso per quanto riguarda la nostra economia dall'assemblea degli industriali di oggi. È arrivato il momento di costruire un'Italia nuova. È un messaggio ben preciso quello che arriva dall'Assemblea Generale di Confindustria. Avere coraggio, superare le vecchie logiche che hanno bloccato il paese. Tanto più ora fa capire il leader degli industriali Giorgio Squinzi dopo che le urne hanno dato un mandato così netto al governo Renzi. Sulla scheda uscita dall'urna c'è scritto: fate le riforme. Ne abbiamo bisogno. Ma da dove ripartire? Quali le priorità sul fronte europeo? Spiega Squinzi, il semestre italiano deve essere l'occasione per ridurre gli eccessi di austerità. Quanto al nostro paese, il leader degli industriali garantisce all'esecutivo la piena disponibilità di Viale dell'Astronomia, ma chiede riforme rapide. Ne abbiamo bisogno per agganciare la crescita, ricreare così lavoro, reddito, coesione sociale. Gli ostacoli però sono tanti, fa capire Squinzi, a partire da fisco e burocrazia. Rigidità sindacali fuori dal tempo. Una burocrazia che sembra compiacersi nel rallentare gli investimenti e distruggere i posti di lavoro. In Italia il sabotaggio della crescita appare sistematico. Altro capitolo, quello del lavoro. Confindustria chiede di favorire la contrattazione aziendale virtuosa che lega i salari ai risultati. Al contempo va migliorata la disciplina del contratto a tempo indeterminato, rendendolo più conveniente e attrattivo per le imprese. Infine, da Squinzi un chiaro riferimento alle vicende legate all'Expo: chi corrompe fa male alla comunità e al mercato. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un piano straordinario straordinario per il Made in Italy. A prometterlo alla platea di Confindustria è il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che annuncia entro fine giugno una serie di interventi mirati per l'industria e la competitività delle piccole e medie imprese e anche un piano per la riduzione della bolletta energetica. Da imprenditrice prestata alla politica, Guidi lancia anche un monito. Dobbiamo dire basta alla dilagante cultura anti-imprenditoriale, basta alla criminalizzazione del profitto. Guardate, sfugge una verità che è però semplice: solo un imprenditore che fa profitti può investire, crescere e dare occupazione. Non mi pare che in Italia ci sia una cultura anti-imprese, commenta la numero uno della CGIL Camusso, che si dice anche in disaccordo con Squinzi sui contratti. La scelta che fa Confindustria di dire che contratto unico a tutte le crescenti non è la soluzione ci lascia molto perplessi, perché vuol dire mantenere un'ampia fascia di precarietà e di forme di dumping interno al mercato del lavoro, che invece sono a nostro avviso una delle ragioni della crisi e anche una delle ragioni della scarsa produttività del sistema. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi abbiamo sentito le voci dall'assemblea di Confindustria, adesso sentiamo invece quali sono le reazioni degli imprenditori. Le imprese promuovono la relazione annuale del leader di Confindustria Giorgio Squinzi. Meno austerità e più crescita attraverso le riforme, come spiega Luigi Abete, presidente della Banca Nazionale del Lavoro. Ha toccato alcuni temi fondamentali, condivisibili. In primis la centralità dell'Europa, le politiche per l'Europa, con attenzione alla crescita. Dopo una lunga recessione torna l'ottimismo, a dirlo è Paolo Buzzetti, numero uno dell'ANCE. Sta succedendo finalmente qualcosa di nuovo con questa rottura sul piano dell'austerità europea, e noi siamo la nazione che presenta le proposte innovative. Il futuro delle imprese italiane si gioca sui mercati esteri, lo sostiene Luca Cordero di Montezemolo, già leader di Confindustria dal 2004 al 2008. Ci si domanda se sia ancora il caso che i corpi intermedi non facciano uno sforzo per essere veramente più vicini alla modernizzazione e soprattutto con maggior presenza internazionale. Le aziende sono unanimi anche nel chiedere la riforma della contrattazione collettiva. Giuseppe Carlo Magno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di sfide economiche, e non solo, ha parlato oggi alla direzione del PD, vi dicevo, il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Si assume la responsabilità della vittoria e si assume quindi anche quella di cambiare l'Europa e l'Italia. Matteo Renzi parla alla direzione nazionale del PD. Avanti sulle riforme, bisogna approvare l'Italicum entro l'estate. Il lavoro è la madre di tutte le battaglie. Il 40% è un accidente della storia, un colpo di fortuna o è un obiettivo stabile? Oggi si tratta di definire se questo obiettivo è un obiettivo che noi vogliamo in qualche modo considerare come casa nostra, se vogliamo metterci la residenza in questo 40% o se vogliamo limitarci a vivere la soddisfazione dell'istante. Assurde le polemiche sulla foto di gruppo PD, mentre il Premier sferza l'attacco al Movimento 5 Stelle. Gli insulti al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in Piazza San Giovanni sono stati il punto più basso della campagna elettorale e Matteo Renzi non perdona l'alleanza tra Grillo e Farage. In streaming si fanno i dibattiti, a trovare i populisti inglesi si va di nascosto. Quando ci dicevamo in campagna elettorale chissà con chi staranno, loro lo sapevano con chi dovevano stare, perché non l'hanno fatto in 24 ore. L'Europa però va cambiata, altrimenti non si salva. La risposta di Bruxelles alla crisi è stata insufficiente. Il nostro compito, dice Renzi, è aprire una discussione sulla politica economica. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sulla politica. Il Movimento 5 Stelle ha presentato ai deputati una nuova strategia. Grillo dice: io dovevo dimettermi da cosa? Matteo Renzi ha saputo trasmettere serenità costruttiva. Noi abbiamo trasmesso sì energia, ma ansiosa e fatta percepire da media e competitors come distruttiva. E questo è il mea culpa messo a punto dai responsabili comunicazione del Movimento 5 Stelle all'indomani del deludente risultato elettorale. Accanto all'analisi, la nuova strategia, che si basa su tre punti cardine: investire sulla TV, cambiare il metodo di selezione dei parlamentari, presentare una squadra di governo. È infatti necessario, secondo il documento illustrato all'Assemblea dei Deputati, affiancare la proposta alla protesta, presentare soluzioni ai problemi denunciati, idee che possano essere concretizzate da una squadra di governo. E mentre si diffonde la notizia che il documento avrebbe fatto infuriare Grillo e Casaleggio perché va in direzione opposta a quella indicata dai due cofondatori, all'interno del movimento non si placano i mal di pancia. Diversi deputati 5 Stelle contrari ad una possibile alleanza con il leader degli euroscettici inglesi Farage. Intanto, a chi gli chiede di fare un passo indietro, Grillo su Facebook risponde: di mettermi da cosa? Il tempo è dalla nostra parte. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentiamo intanto cosa avviene in casa Lega e in Forza Italia. Prime prove di dialogo tra Lega e Forza Italia in vista della ricostruzione del centrodestra, un dialogo che riparte dal sostegno del partito di Berlusconi a due dei referendum promossi dal Carroccio. L'annuncio ufficiale in una conferenza stampa alla quale avrebbe dovuto partecipare Berlusconi, che all'ultimo momento ha disertato, secondo alcuni per i malumori da parte di alcuni esponenti azzurri che mal digeriscono un'eventuale alleanza con la Lega, soprattutto dopo il suo abbraccio con Marine Le Pen, così invece Giovanni Toti. Non c'è nessun rischio di abbraccio mortale, con la Lega abbiamo governato bene 20 anni questo paese, non vedo quale rischio ci possa essere. Più cauto il leghista Salvini, comincia un percorso ma senza fretta. Nessuno di noi vuole fare passi affrettati, è chiaro che non si parla di una riedizione, di una sommatoria di sigle. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo adesso alla cronaca. C'è stato oggi un grave incidente a Carpen, in provincia di Belluno, dove un pullman in cui si trovava una 50 di bambini è uscito di strada ribaltandosi. C'è Livia Zancaneri che ci racconta. Livia, come è andata? Qual è stata la dinamica di questo incidente? Sì, allora diciamo che il bilancio di questo incidente stradale è stato piuttosto grave, nel senso che l'incidente è avvenuto a Carpen, che è una frazione di Feltre. I ragazzi tra i 12 e i 16 anni erano diretti a Legnano Sabbia d'Oro per il campionato nazionale di nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano, e il pullman si è ribaltato. Secondo le prime ricostruzioni che sono state fatte oggi, il mezzo sarebbe uscito di strada autonomamente a causa di un problema durante una frenata, ma gli accertamenti tecnici sono ancora in corso. Senti, ci sono feriti tra i ragazzi? Qual è il bilancio per ora? Sì, allora diciamo che 37 sono i feriti complessivi, di cui 3 gravi. Uno di questi è stato operato d'urgenza all'ospedale di Feltre per la rottura della milza. Gli altri 2 giovani in prognosi riservata sono uno a Belluno con un trauma cranico e l'altro a Treviso, dove è stato sottoposto a un'operazione al fegato. Comunque tutti e 3 sono in prognosi riservata. E poi si cercherà appunto di capire qual è stata la dinamica. Grazie Livia Zancanera. Adesso invece parliamo delle vicende Carige. È finito in carcere l'ex presidente della banca Carige, la banca di Genova, Giovanni Berneschi, fino ad oggi ai arresti domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa a danni della banca e riciclaggio per aver violato appunto il divieto previsto dagli arresti domiciliari. Ora la decisione della Cassazione, che dice sì al diritto dei condannati in via definitiva per spaccio lieve di droga al ricalcolo della pena a ribasso. Di questo poi parleremo dopo, mi piacerebbe sapere anche le vostre opinioni. Intanto la Camera ha approvato la proposta di legge sul divorzio breve, che riduce i tempi dello scioglimento del matrimonio a 12 mesi in caso di contenzioso e a 6 mesi quando invece c'è l'accordo. Il testo adesso passa al Senato, quindi ne parleremo quando diventerà definitivamente legge. Insomma, spostiamoci all'estero. Con l'Ucraina, le autorità di Kiev hanno confermato l'abbattimento di un elicottero nel corso delle operazioni contro i ribelli dell'est. Ci sono 14 morti. Secondo i ribelli sarebbero invece 2 gli elicotteri abbattuti. Intanto l'Unione Europea fa sapere che domani il commissario europeo dell'energia Oettinger e rappresentanti russi e ucraini si incontreranno nel pomeriggio a Berlino per una nuova serie di negoziati sull'approvvigionamento di gas russo all'Ucraina, e sapete, è uno dei problemi centrali, un dossier che interessa a cascata appunto le forniture dell'Europa. L'offensiva dell'esercito ucraino contro i separatisti delle regioni orientali si concentra su Slaviansk, la loro roccaforte, e qui oggi è stato abbattuto un elicottero governativo che trasportava rifornimenti. 14 le persone a bordo rimaste uccise, tra loro un generale, come conferma Kiev, che aggiunge di aver poi distrutto l'unità da cui era partito il razzo. Il presidente eletto Poroshenko aveva promesso di farla finita con i separatisti nel giro di poche ore, ma anche lui sembra ormai intrappolato in questa offensiva senza via d'uscita a breve, con la Russia che tiene alta la tensione e che ora accusa l'Occidente, è il consigliere di Putin Glazev ad averlo detto, di usare il conflitto in Ucraina per scatenare la terza guerra mondiale. La ricerca di un dialogo tra Putin e Poroshenko potrebbe complicarsi ulteriormente, perché questa notte scade l'ultimatum di Gazprom per il pagamento dei debiti dell'Ucraina. Solo se inizieranno ad arrivare i rimborsi si potrà discutere di uno sconto, altrimenti le forniture di gas verranno interrotte. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora in India ancora una vicenda atroce, due sorelline adolescenti, Dalit, cioè senza casta, proprio dei livelli più bassi della popolazione, di 14 e 15 anni, queste ragazzine di un povero villaggio dell'Uttar Pradesh sono cadute nelle mani di una banda di balordi che le ha violentate, uccise e infine appese ad un albero. Il padre aveva denunciato la scomparsa delle ragazzine martedì al commissariato senza naturalmente ottenere la minima attenzione dall'ufficiale di turno. L'autopsia ha confermato oggi che le due ragazzine sono state ripetutamente violentate e poi strangolate prima di essere appese all'albero. Gli esperti sono a corto di argomenti ormai sulle ragioni di un fenomeno così esteso in India di violenze sessuali che continua a colpire le donne del paese, eppure sembrava che il terribile episodio, vi ricordate, della studentessa di 23 anni stuprata a morte a New Delhi nel dicembre 2012 su un autobus, avesse un po' smosso la coscienza degli indiani, ma evidentemente non è stato così. Passiamo alle nomine al vertice delle Ferrovie dello Stato. Marcello Messori è il nuovo presidente di FS, l'assemblea ha anche rinnovato il CDA e fra gli altri c'è Elia, che la prima riunione conferirà a lui le deleghe come nuovo amministratore. E ora parliamo di scioperi. Sono iniziati subito i disagi per i viaggiatori con una rilevantissima adesione da parte dei lavoratori alla 2 giorni di sciopero nazionale proclamata da diverse sigle sindacali, tra queste USB, Unione Sindacale di Base, afferma che alle 12 di questa mattina il 50% dei convogli fra trasporto a lunga percorrenza e traffico locale è stato interessato dalla protesta con cancellazioni o forti ritardi, alcuni anche nelle fasce protette. Trenord ha cancellato infatti in Lombardia alcuni treni, tra cui l'ultimo per Milano in partenza da Lecco alle 8.07. Secondo la società non rientrava tra i garantiti. Per i pendolari Milano-Lecco lo sciopero è incominciato perciò un'ora prima. L'agitazione sindacale infatti non dovrebbe toccare le fasce orarie di maggiore affluenza di pendolari del mattino 6-9 e della sera 18-21, ma anche nelle stazioni di Milano Centrale e Milano-Porta Garibaldi sono risultati numerosi treni soppressi il cui arrivo era previsto prima delle 9. Regolari le frecce di Trenitalia, possibile cancellazione di alcuni intercity. Domani si ricomincia a scioperare, saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale a livello nazionale con fasce diverse da città e città. Sul fronte aereo stop di Meridiana e EasyJet, ridotti i voli Alitalia e Air One da e per Milano. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima era Michele Mario Elia per il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Per chiudere il calcio, l'Alta Corte del CONI boccia un ricorso del Parma e per il Torino si aprono le porte dell'Europa. Il Parma resta praticamente a terra, il Torino prende il volo, l'Alta Corte del CONI respinge il ricorso dei Ducali e ne conferma dunque l'esclusione dalla prossima Europa League, alla quale parteciperanno invece i Granata. A negare la licenza UEFA al club emiliano senza sul campo c'erano state la commissione di primo e secondo grado della FIGC a causa del mancato pagamento IRPEF per alcuni tesserati. Questioni, problemi fiscali anche per loro. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e ci ritroviamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso ve le ricordo le notizie, intanto vedevo i vostri messaggi, c'è Mario sconsolato, lo ringrazio anche per il complimento, dice questa politica non cambierà niente, la gente continuerà a soffrire, poi parleremo anche degli interventi in Europa, parleremo di Renzi. E invece c'è un altro ascoltatore che dice che aspetta insomma di vedere che cosa succede adesso con l'Italia forte nell'Unione Europea. Ma vi ricordo adesso, se avete acceso in questo momento, in modo riprovevole vi dico che dovete accendere assolutamente alle 21, ma se siete all'ascolto da adesso o se avete voglia di risentirle, vi ricordo le notizie più importanti della giornata. C'è stata la direzione del PD oggi, la riunione del Partito Democratico, dove Renzi ha lanciato le sue sfide su Unione Europea e lavoro e dice la vittoria ci dà responsabilità. C'è stata anche l'assemblea di Confindustria a Roma, il presidente Squinzi ha rilanciato sulla crescita e la ministra dello sviluppo Guidi ha detto stop alla cultura anti-imprenditori. Ne abbiamo parlato prima di questo incidente nel Bellunese, in un pullman che si è ribaltato con a bordo 40 ragazzi, ci sono 4 feriti gravi. La sentenza della Cassazione sulle droghe leggere, sia la riduzione delle pene per lo spaccio appunto delle droghe leggere, migliaia fuori dal carcere, questa è la previsione. Alla Camera passa intanto il divorzio breve, ora va al Senato. Ucraina è guerra aperta, i ribelli abbattono alcuni elicotteri e nasce l'Unione Eurasiatica tra Russia, Kazakistan e Bielorussia per uno spazio economico unico. E poi ancora atrocità, avete sentito, contro delle donne in India, un branco di uomini violenta 2 ragazzine adolescenti e poi le impicca. Per il calcio il CONI boccia il ricorso del Parma e per il Torino si aprono le porte dell'Europa League. Ebbene, adesso invece parliamo di della nostra economia, di come sta andando il paese e di come la vedono gli industriali. Oggi c'è stata, vi dicevo, l'assemblea di Confindustria a Roma. Saluto Alberto Orioli, vice direttore del Sole. Ciao Alberto, ben ritrovato. Buonasera a tutti, ciao. Allora, io ti farò sentire alcuni passaggi sia di Squinzi sia della ministra Guidi oggi nei loro interventi. Partiamo da Squinzi. È arrivato il momento di costruire un'Italia nuova. È compito nostro superare le vecchie logiche, non avere paura del nuovo. Da questa crisi, che sembra non finire mai, possiamo uscire solo decidendo ciò che da almeno 2 decenni non abbiamo avuto il coraggio di fare. Cambiare facendo. Insomma, la politica del fare, questa espressione che ha forse inaugurato in modo così forte ed evocativo Renzi, no? Matteo Renzi, col suo governo. E sentiamo però un altro passaggio di Squinzi dove passa direttamente a parlare delle riforme che diverse volte ha annunciato Renzi. Sentiamo. Il mandato popolare dato al principale partito di governo e al suo leader Matteo Renzi testimonia la voglia di cambiamento che c'è nel nostro paese. Questa voglia attende fatti che diano sostanza alle riforme e alla crescita. Dal governo sono venuti incoraggianti segnali di rinnovamento. L'azione vivace dell'inizio e un risultato straordinario come questo del voto ci fanno sperare che la stagione delle riforme istituzionali adesso parta per davvero. Insomma, è un attestato di fiducia, anche una specie di avvertimento per davvero, questo sottolineare, no, da parte del presidente di Confindustria Squinzi. Insomma, è un messaggio chiaramente a Renzi e al suo governo. Alberto. Sì, esatto, sicuramente. Ha detto il presidente Squinzi che dalle urne è uscito un invito a fare le riforme, un invito esplicito: ora fatele, non deludeteci, così ha detto il presidente Squinzi, citando, chiosando l'esito straordinario che l'Italia ha avuto alle consultazioni europee. L'aria che si respirava oggi all'auditorium, alla fine dei due discorsi del presidente Squinzi e del ministro Guidi, era che ci sono le energie che si stanno avvicinando per fare effettivamente un'Italia nuova, un'idea nuova dell'Italia. Non c'era quell'atmosfera un po' plumbea del declinismo, della lamentazione, di un'idea un po' disperata, collettivamente depressa e anche individualmente tendente alla depressione. È venuto fuori un'idea che forse la possibilità di cambiare le cose è davvero alla portata. C'è stata una grande convergenza tra le cose che ha detto il presidente Squinzi e quelle che ha detto il ministro Guidi. Infatti, a questo proposito, perdoni se interrompo, prego. Per non bruciare, diciamo, la parte di intervento che abbiamo tagliato della ministra Guidi, che ha sottolineato anche la sua disapprovazione, diciamo, nei confronti, ha detto, di una cultura antiimprenditoriale. Sentiamo. Io credo che la prima battaglia, e vorrei, come dire, offrirvi questa riflessione, che dobbiamo cercare di combattere, sia di natura culturale. Sono d'accordo con quello che diceva il presidente Squinzi. Dobbiamo dire basta alla dilagante cultura antiimprenditoriale, basta alla criminalizzazione del profitto. Guardate, sfugge una verità che è però semplice: solo un imprenditore che fa profitti può investire, crescere e dare occupazione. Piuttosto sottolineato questo tema, no? Appunto, la ministra Guidi dicendo no alla criminalizzazione del profitto, perché sono industriali che fanno profitto che poi danno anche più occupazione. Sì, è molto importante che da questa mattinata sia emersa l'idea di una sequenza invertita rispetto a quella del passato. Cioè, nel passato il lavoro e l'occupazione erano un tema per dibattiti sulle regole. Oggi è venuto fuori con grande nettezza, con grande forza e con grande orgoglio, anche rivendicativo direi, che il lavoro è una cosa che arriva alla fine di un ciclo virtuoso dell'economia e di sviluppo, che parte dall'impresa, che va evidentemente aiutata, incentivata, ma non tanto con gli aiuti di Stato, quanto con un clima paese, un contesto anche culturale e non solo culturale, che possa agevolarne le mosse e rendere più veloce il suo potenziale d'azione. Da qui viene fuori la grande crociata contro la burocrazia, che è una cosa che caratterizza il mandato della presidenza Squinzi, che è venuta fuori anche oggi con grande nettezza: la burocrazia oppressiva che non consente alle imprese di liberare le energie positive per creare gli investimenti, per farli celermente, per quindi per quella via per creare la crescita e quindi l'occupazione. è venuta fuori anche con grande forza l'idea che il primo punto fondamentale delle agende, sia delle imprese, delle associazioni degli imprenditori, degli industriali privati, sia del governo, è il tema del lavoro, appunto il lavoro, l'occupazione, che è il grande male, è stato il grande male per molti anni, dovuto poi alla crisi planetaria e non solo, è anche una crisi tutta nostra, va risolto, insomma, per una volta è venuta fuori con grande forza questa questione del lavoro, che da una parte deve essere, come ho detto prima, il risultato della crescita, ma dall'altra deve anche essere frutto di un atteggiamento nuovo nel dialogo tra imprese e sindacati. In questo Squinzi ha lanciato una sfida vera e propria alle organizzazioni sindacali, no, che però mi sembravano un po' critici, soprattutto la segretaria della leader della CGIL Susanna Camusso, soprattutto quando la ministra Guidi ha detto basta anche con questi dibattiti italioti e surreali come quello sul mercato del lavoro, perché nessun imprenditore licenzierà mai un dipendente per capriccio. Camusso, pare, raccontano che abbia avuto così un ironico sorriso, e ha detto anche che la ministra affida troppo alle sole imprese i temi della crescita dell'occupazione. Invece, ha detto la Camusso, se si vuole partire dalla creazione di lavoro serve un significativo intervento dello Stato. Sì, è evidente, non è mai stato citato esplicitamente, però è chiaro che in questa mattinata è venuto fuori una sollecitazione diretta alla parte che fino adesso ha più contrastato le azioni di modernizzazione e di velocizzazione, di flessibilizzazione del mercato del lavoro. E non solo, e che è naturalmente la CGIL, che non a caso nel suo recente congresso ha avuto anche una lacerazione forte al suo interno, perché c'è una nuova corrente massimalista che tentava la scalata alla segreteria, che è ancora minoritaria ma che comunque spinge molto poi nella discussione e nell'atteggiamento poi strategico che la Confederazione deve avere. È evidente che però qualcosa deve cambiare, perché quel tipo di atteggiamento non ha risolto il problema, evidentemente, se i numeri che abbiamo davanti sono questi. Sicuramente non è solo colpa di un atteggiamento un po' troppo conservativo e massimalista da parte della CGIL, e non solo della CGIL, sui temi che riguardano il lavoro e le regole, ma è anche frutto sicuramente di un atteggiamento un po' retro, per così dire, non adatto alla modernità, che ci impone sfide nuove, che ci impone di considerare le start-up, dove l'idea del lavoratore è anche l'idea stessa dell'imprenditore, perché tutto questo fiorire di start-up non è altro che un fiorire di occupati giovani che fanno gli imprenditori di se stessi sostanzialmente, e cominciano a essere moltissimi e sono del tutto fuori dai radar di una rappresentanza formale, sia sindacale o imprenditoriale, diciamo così. Quindi ci sono sollecitazioni che vanno colte, le sta cogliendo perlomeno negli slogan il governo Renzi, oggi sicuramente le ha colte il presidente Squinzi nella sua relazione, la palla adesso passa al sindacato. Squinzi ha detto chiaramente, dice, gli accordi si fanno se hanno senso, bisogna spostare con grande forza il pendolo della contrattazione sull'azienda in modo da poter remunerare al meglio, anche in modo più consistente, il lavoro laddove si fa e dove è produttivo, ma non bisogna impastoiarsi in una contrattazione nazionale che poi non porta frutti. Quindi ci sono delle piste che andranno percorse virtuosamente nei prossimi giorni, ma anche molto velocemente. Vediamo quanto velocemente e quanto virtuosamente. Intanto grazie Alberto Rioli. Ciao, grazie, buon lavoro. Ciao Alberto. Sta iniziando, vedo, un dibattito in TV ad anno uno sul questa sentenza della Cassazione sulle droghe leggere, poi ne parleremo, magari vediamo anche di far sentire, vedo un Carlo Giovanardi molto molto sorridente sulla questione. Per gli sms 349-238-6666 e sempre vi dico c'è la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione. Vedo già dei messaggi, qualcuno che dice viva la Maria, insomma, e qualcuno che dice da qualche parte dovranno pur cominciare a svuotare le carceri. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo con voi, Roberta Giordano, proseguiamo il racconto della giornata, prima in sintesi e poi attraverso vari temi. Tra poco passeremo a quello della sentenza della Cassazione sulle droghe leggere, sullo spaccio delle droghe leggere, e saluteremo gli ospiti che ci dovrebbero essere in onda tra pochi istanti, li dovremo raggiungere. Intanto leggevo, vedete come le opinioni possono essere completamente opposte, come è normale. Le leggo tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666. A proposito di quanto quanto si diceva prima dell'assemblea oggi di Confindustria, delle reazioni degli imprenditori e soprattutto del discorso della ministra dello sviluppo Guidi, dice un ascoltatore o ascoltatrice, le parole del ministro sono frasi del primo Novecento. Invece un altro, Ali, scrive: viva la ministra Guidi che rottama la concezione cattocomunista di vergogna per profitto e ricchezza. Avete proprio due opinioni opposte. Sentiremo poi le opinioni invece sulla sentenza che vi dicevo, sia vostre sia degli ospiti, ma intanto vi ricordo quali sono stati i fatti in primo piano oggi. La direzione del PD c'è stata oggi e Renzi ha presentato le sue sfide su Unione Europea e lavoro. Bisogna tracciare una nuova strada, ha detto, la vittoria per la nostra, per gli italiani e per l'Italia, non indietreggiamo. E poi Squinzi all'assemblea di Confindustria, il presidente di Confindustria ha detto: il governo ha avuto un forte mandato popolare, ora seguono i fatti. La ministra Guidi ha detto: stop alla cultura antiimprenditori, piuttosto critici i sindacati. Per la politica caos, il Movimento 5 Stelle, furia di Grillo e Casaleggio per un documento, si dice segreto, sul voto, in cui qualcuno analizza, qualcuno dei 5 Stelle, dicendo non è un voto pro Renzi ma contro di noi. E poi intanto Berlusconi riapre la partita delle alleanze, non va da Salvini per il referendum ma pare che appoggino Forza Italia, almeno un referendum della Lega. Ok della Camera il divorzio breve, la rabbia dei cattolici e poi sia la riduzione delle pene per lo spaccio, migliaia potrebbero andare a breve fuori dal carcere. E poi guerra aperta in Ucraina, ribelli abbattono elicotteri, nasce l'Unione Eurasiatica a tre. Ora parliamo, allora vi dicevo della sentenza della Cassazione che è arrivata oggi. Dovranno essere riviste a ribasso, secondo questa sentenza, le pene definitive per i piccoli spacciatori di droga condannati in via definitiva con pene inflitte nel periodo in cui era in vigore, vi ricordate, la legge Fini-Giovanardi, dichiarata però lo scorso febbraio incostituzionale. Quindi saranno riviste, ridotte le condanne definitive previste dalla legge Fini-Giovanardi, quanto hanno stabilito le sezioni unite penali della Cassazione, chiarendo così le ricadute di quella pronuncia della Corte Costituzionale che c'era stata appunto a febbraio, a seguito della quale è tornata in vigore la legge Iervolino-Vassalli. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni anche sul numero dei detenuti nelle carceri italiane, perché se va rimodulata a ribasso la condanna di vari di questi detenuti potrebbero uscire a breve, e secondo le prime stime indicative provenienti da fonti dell'amministrazione penitenziaria sarebbero tra i 3.000 e 4.000 i detenuti che potenzialmente potrebbero beneficiare di questa misura. Dovrebbero essere in collegamento l'onorevole Danilo Leva del PD. Buonasera. Buonasera. Membro della Commissione Giustizia della Camera, già responsabile per la giustizia del PD, e l'onorevole Guidesi, deputato della Lega Nord, che ha problemi con l'aereo. Guidesi, buonasera. Buonasera, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, meno male. Ecco, non capivo se era sopra, se era un piede sopra lo scalino o giù dall'aereo. Comunque, Guidesi, io leggevo una dichiarazione di oggi del suo collega, deputato Molteni, che diceva, ne parlava di questa sentenza come di un vergognoso indulto, in sintesi. No, diceva, bene, allora l'ennesimo indulto che si somma a 5 svuota carceri, garantisce sostanziale impunità agli spacciatori, questo è diventato il governo degli immigrati, delinquenti e spacciatori. Questa era l'opinione di Molteni, Nicola Molteni, sempre della Lega. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, è l'opinione di tutta la Lega. Molteni, da capogruppo in Commissione Giustizia, ha espresso l'opinione di tutto il movimento. Noi purtroppo in un anno abbiamo visto effettivamente passare provvedimenti che hanno provveduto a liberare i delinquenti dalle carceri, creando una situazione di insicurezza sul territorio notevole, una situazione di insicurezza che è andata ad aumentare attraverso questi provvedimenti. Oggi ci si mette anche questa sentenza che coincide esattamente o va a seguito di un provvedimento voluto dal Partito Democratico che divide il giudizio sulle droghe leggere e droghe pesanti, depenalizzando il reato di spaccio, l'ultimo provvedimento che noi abbiamo chiamato anche quello un provvedimento di indulto, che è passato alla Camera. Noi quello che diciamo, più che una questione, diciamo, dal punto di vista tecnico e di giustizia, noi crediamo che questi tipi di provvedimenti possano cambiare i valori della società, nel senso, il Partito Democratico sta dando un segnale di impunità, E questa cosa dal nostro punto di vista è assolutamente inaccettabile. E allora, Guido Guidesi, sentiamo come rappresentante del Partito Democratico Danilo Leva. Come risponde Leva a queste accuse? Ma che la Lega ha bisogno di agitare, ha bisogno insomma di agitare la bandiera, altrimenti non sarebbe la Lega, ecco. Questi sono temi che non si possono affrontare in questo modo. Non si può speculare sulle paure, non si possono agitare spettri che non esistono. Oggi la sentenza della Corte di Cassazione non fa altro che operare una sorta di raccordo anche tra normative previgenti e normative vigenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Si arriva per via interpretativa, ma appunto tramite l'operato della giurisprudenza, e si sancisce un principio che è quello del favor rei, a cui è ispirato il nostro ordinamento. Mi rendo perfettamente conto che tutto questo alla Lega non piace, in quella visione anche abbastanza ottusa che hanno della società, ma vorrei ricordare che il nostro codice penale e la nostra Costituzione mettono al primo posto il principio appunto del favor rei. Ci spiega che cos'è? Una tendenza logica. Ma ci spiega che cos'è questo favor rei? Favor rei, nel momento in cui ci sono delle sentenze già passate in giudicato e alla luce della sentenza che ha dichiarato incostituzionale la Fini Giovanardi, nell'incidente di esecuzione è possibile rivedere quelle norme, rimodularle al ribasso in base anche alla nuova normativa che le Camere hanno approvato insomma qualche settimana fa, che distingue il piccolo spaccio dal grande spaccio, come è normale che sia, perché non si può paragonare coloro che spacciano uno spinello, quindi marijuana o hashish, a coloro che spacciano droghe pesanti e che magari sono anche legate alla criminalità organizzata e così via, insomma. Cioè, quindi è un criterio anche si segue un criterio di buon senso, di logicità, di razionalità, così come deve essere come devono essere le norme di diritto penale. Allora, c'è ancora un minuto a testa per rispondere, Guido Guidesi. Quindi lei non approva che ci sia questa distinzione, come aveva stabilito la consulta, tra droghe leggere e droghe pesanti? Ma guardi, qua non è, né una questione di distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Il collega dimentica le tante audizioni che sono state fatte nella commissione, dove poi le cosiddette droghe leggere, un termine giornalistico, ma non sono più leggere. Qua si tratta non neanche di portare una bandiera, qua si tratta di dire ci sono delle regole e le regole vanno rispettate. Se si è deciso di smantellare quelle regole e di rendere impuniti coloro i quali spacciano, e poi vorrei capire cosa intende con... per me lo spaccio è legato alla microcriminalità, a quanto pare per il Partito Democratico no, ma qua è una questione di giustizia e soprattutto di valori sociali. Se si è deciso di smantellare completamente i valori e di rendere impuniti qualsivoglia tipo di reati, il Partito Democratico ha preso esattamente questa strada. Noi non siamo d'accordo e non ha una visione ottusa, è semplicemente una visione di regole e di senso civico. Bene, è stato nei tempi. Danilo Leva, abbiamo un minuto ancora per lei per rispondere. C'è il rischio quindi che tanta criminalità ritorni in mezzo alle strade, no, con la libertà di 3.000, no. 4.000? Secondo me? No, assolutamente no. Ricordiamo che in base alla nuova normativa non c'è nessun automatismo, ma spetta al giudice, caso per caso, graduare l'entità della pena in base alla qualità e quantità della sostanza spacciata e anche alle altre circostanze, insomma. Il piccolo spacciatore tra l'altro potrà usufruire anche del nuovo istituto introdotto della messa alla prova. Mi sembrano norme di civiltà giuridica molto lontane dalle cose che diceva il collega della Lega, non si distingue tra droghe leggere e droghe pesanti, ma si gradua semplicemente la sanzione, vale a dire la pena, in base all'entità dello spaccio. E, ripeto, sono criteri di razionalità, il diritto penale deve essere ispirato anche a questi principi. Insomma, vi ringrazio, ognuno naturalmente rimane sulla propria posizione, le ascoltatrici e ascoltatori hanno avuto modo di capire quali possono essere le posizioni, di farsi un'idea propria. Comunque poi vedremo appunto quali saranno le cose che seguiranno a questa sentenza della Cassazione. Grazie onorevole Danilo Leva, grazie onorevole Guido Guidesi. Grazie a voi, buona continuazione, buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo brevissimamente le notizie, la riunione del PD, lo abbiamo detto, con Renzi che parla delle sfide relative all'Unione Europea al lavoro, poi l'assemblea di Confindustria col presidente Squinzi che rilancia sulla crescita e poi l'incidente nel Mellunese con un pullman che si è ribaltato con a bordo 40 ragazzi, ci sarebbero 4 feriti gravi. Per la droga la Cassazione, di cui abbiamo discusso ora, ha deciso sì alla riduzione delle pene per lo spaccio di quelle leggere e poi ancora atrocità contro le donne in India, un branco di uomini violenta 2 ragazzini adolescenti e poi le impicca. E adesso parliamo di Europa. Europa 24 notte. Proseguo naturalmente, come potete immaginare, i lavori dell'Unione Europea, visto che ci sarà questo cambio di testimone tra vecchi, diciamo così, europarlamentari e quelli che prenderanno il posto. Ci dovrà essere la nomina del Presidente della Commissione. Insomma, a parte di chi, quali poltrone occuperà chi, caro Enrico Brivio. Ciao Enrico. Ciao. Che forse bisognerebbe affrontare. Ecco, bisognerebbe affrontare forse temi più, diciamo, emergenti, più emergenziali. Meglio. Comunque, al di là di questo, tra un mese l'Italia avrà la presidenza dell'Unione Europea, no? Il semestre di presidenza. Quali potrebbero essere i temi scottanti, le cose più importanti che potrebbero essere messe sul tappeto a breve dall'Italia, visto che Renzi sta ripetendo che con questo voto, con questo successo siamo più forti? Beh, indubbiamente sì, Renzi si presenta anche come partito socialista più forte d'Europa, uno dei partiti che ha preso più consensi, quindi indubbiamente si presenta come un presidente forte dell'Unione Europea e terrà questo suo primo discorso il 2 luglio a Strasburgo, in cui traccerà il suo programma. Chiare le sfide davanti, prima di tutto una presidenza che ha il problema di dover colmare anche il vuoto di potere che c'è in questo momento di trapasso in cui si sta instaurando una nuova commissione, un nuovo Presidente del Consiglio, e quello è una prima responsabilità. Poi c'è senz'altro il compito di dare una sterzata alle politiche economiche, cominciare una strada di ammorbidimento dell'interpretazione di certi parametri economici, perché ormai è un po' il consenso generale che ci vuole un'Europa maggiormente orientata alla crescita, e questo ha promesso Renzi. Chiaramente si possono fare dei piccoli passi, i tedeschi e i nordici vanno pian piano persuasi, ma soprattutto se andrà al portafoglio economico della Commissione Europea una persona che invece non sia così rigida come Olli Rehn, ma sia un po' più flessibile, si può già aprire un discorso di un'interpretazione diversa delle regole che esistono. Poi c'è il problema di molti altri dossier che sono sul tavolo, da quello delle priorità energetiche e ambientali fino al 2030, da come si intende organizzare il mix energetico europeo, e poi ci sarà anche da avviare un primo passo, una riflessione più profonda di lungo periodo per rivedere i trattati, cioè per fare quella riforma profonda dell'Europa che non può essere fatta in un giorno, in un mese o in un anno, ma che può essere avviata proprio dalla presidenza italiana. Bene, questi quindi sono i presupposti, manca ancora un mese, vedremo poi che cosa si riuscirà a fare davvero di concreto. Grazie Enrico Brivio. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora Riprendiamo un tema anche della giornata, questo viaggio in Emilia. Due anni fa, vi ricordate, il 29 maggio 2012, una seconda scossa di terremoto dopo quella del 20 maggio colpiva pesantemente la bassa modenese e parte del mantovano, furono 29 le vittime. Noi siamo tornati lì per tutto il giorno, vi stiamo raccontando la situazione di oggi, delle persone, delle imprese, anche dei monumenti colpiti. Proprio a questo è dedicata a questa tappa del Radio Day sul sito di radio24.it, poi potete riascoltarle tutte. Radio 24 Day. Svetta su una torre di tubi e acciaio il nuovo orologio di Finale Emilia, da quando il vecchio, sfregiato e dimezzato, è diventato il simbolo del terremoto di due anni fa, un quadrante a metà senza lancette e senza tempo. Anche qui, come negli altri 58 comuni colpiti dal sisma, il centro storico è ancora in gran parte chiuso, puntellato e sottratto al passo degli abitanti che qui, come a Cavezzo, Mirandola, Moglia, hanno fretta di tornare a viverlo. 549 milioni, calcola la regione, per ricostruire i monumenti, pezzi fondamentali di un'identità fratturata dalle scosse del 2012. E i soldi per questo si aspettano da Roma. Intanto la gente non sta ad attendere. A Finale hanno recuperato una alla volta le pietre della Torre dei Modenesi, quella che sorreggeva l'antico orologio, perché vogliamo ritornare ad avere il nostro orizzonte, si infervora il sindaco Fernando Ferioli. In una parte del centro, quella medievale ovviamente sì, perché è quella più colpita. Stiamo cercando di recuperare il più possibile invece la parte, diciamo, settecentesca, ottocentesca. I monumenti sono assolutamente quelli più danneggiati, ma anche quelli lasciati per ultimi, però noi abbiamo la necessità di ricostruirli, sono la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre immagini, quello che noi vogliamo rivedere, no? Sono le sagome che ci hanno accompagnato per mille anni lungo la nostra storia, per cui abbiamo anche già un progetto preliminare, ad esempio per la Torre di Modenesi, abbiamo raccolto tutte le pietre, però abbiamo la necessità di un aiuto. Sembrava esserci inizialmente degli interessi per ricostruirla da parte di aziende private, è sfumato col passare del tempo. Quanti soldi vi servirebbero? Noi abbiamo nostra disponibilità, siamo sui 300-400 mila euro, diciamo che siamo al 35-40% di quello che servirebbe. E questo vale anche per il Duomo di Mirandola, la Chiesa di San Francesco, vale per il Duomo di Cavezzo, tuttora sventrato, e per i tanti campanili, torri e chiese coi loro mattoni rossi che dipingono il volto di questa terra, la bassa modenese, dove nelle piazze si vive e intorno a questi simboli si consolida la comunità, e sono impazienti di riavere il proprio centro anche a Moglia, nel mantovano. E anche se questa zona è da sempre rimasta più in ombra, i danni due anni dopo restano non pochi, li elenca il sindaco Simona Maretti. Mancano 55 milioni per quanto riguarda il mantovano, perché devono essere ancora messi a disposizione da parte del governo. Se questi fondi arrivano, è ovvio che si potrà procedere anche rispetto alle chiese, al completamento dei centri storici, ai teatri rimasti fuori, parlo anche di una situazione più generale, non soltanto di Moglia, e arrivare quindi a avere una ricostruzione ad ampio raggio. Riaprire i monumenti per la bassa significa recuperare quell'identità in parte smarrita con le scosse di due anni fa e tornare a scandire il tempo su quegli orologi come quello della Torre dei Modenesi che hanno accompagnato intere generazioni. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Finale Emilia. E sto leggendo alcuni dei vostri messaggi arrabbiati sulla questione e qualcuno invece diciamo favorevole alla sentenza della Cassazione. Tina dice: il futuro dei giovani italiani avrà uno sbocco in più nello spaccio e nella prostituzione. Invece Alessandro dice: le conseguenze economiche, risarcimenti eccetera dovrebbero sostenerle gli autori dell'iniqua legge incostituzionale, invece saranno sostenute dal contribuente. E chi restituisce, si chiede, il tempo trascorso nella sovraffollata carcere che è stato condannato sulla base di detta legge? Poi c'è qualcuno che chiede: quando una legge incostituzionale rientra in vigore quella precedente? Sì, effettivamente, finché non viene insomma elaborata un'altra. E poi un altro che scrive, adesso mi dicono però i tempi stringono, ci sono molti vostri messaggi, direi che ci sentiamo tra pochi istanti.